Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vado allo stadio in media una volta ogni 10 anni. Quando ero ragazzino, mio padre mi portò a San Siro. Arbitrava Concetto Lobello. Il ricordo più forte di quella partita è stata la voce di un imbecille che per tutto il tempo gridava all'indirizzo dell'arbitro «Terremotato!». Parecchi anni dopo, durante una trasferta del Milan a Firenze, i tifosi della Fiorentina presero a sassate il nostro pullman. Passarono un po' di anni prima che tornassi allo stadio per la terza volta. Era Inter Borussia, a San Siro. I miei fratelli, ferventi milanisti, ebbero la pessima idea di entrare allo stadio con un gadget rosso-nero. I cugini interisti ci costrinsero, dopo averci accerchiati, a baciare la bandiera interista. Non sono d'accordo con chi vorrebbe punire i razzisti e i violenti, dei quali presto si tornerà a parlare, appena ricominceranno a far danni. Anzi, li premierei, facendoli entrare gratis allo stadio e alternando alle partite proiezioni su maxischermo dei vari reality. Qualcosa in cambio però vorrei. Vorrei che costoro, una volta entrati, non uscissero più. Adriano di Milano. Non sono razzista, però Balotelli se lo hai cercato. Non sono razzista, però... Questa è stata la prefazione a molti interventi che ho ascoltato in radio negli ultimi giorni. Semplicemente assurdo, incomprensibile e soprattutto molto preoccupante. Preoccupante è che chi pronuncia quel però non si renda conto di cancellare con una sola parola il significato di uguaglianza. Non si può essere antirazzista a condizione che o si è razzisti o non lo si è. Il significato di molti interventi di persone che si sono annunciate come non razziste era molto chiaro. Tradotto in parole povere, non sono razzista finché fai il bravo, però se ti permetti di sfottere ed esci dalla buona condotta, allora un bel negro di M non te lo leva nessuno. Però non sono razzista, sei tu che te la sei cercata. Il grosso problema è non riuscire a distinguere un arbitro cornuto da un negro di M. La prima è un'offesa, sicuramente poco simpatica, la seconda è razzismo. Il problema di fondo è che quando si vuole offendere una persona, la si apostrofa con aggettivi che si ritengono dispregiativi, come ad esempio strozzino, pedofilo, stupratore. Tutti quelli che per offendere Balotelli o qualsiasi persona di colore lo etichettano come negro di M, nella loro testa pensano e sono convinti che essere neri sia una cosa negativa. E questo come lo vogliamo chiamare, se non razzismo? L'ultima cosa, ma forse non la meno grave, è che gli interventi a cui mi riferisco sono stati fatti da persone apparentemente per bene, che parlano con un italiano corretto, ragazzi di 30-40 anni, dalla voce almeno sembrava così. Insomma, non i classici invasati delinquenti che si spacciano per tifosi e usano gli stadi per sfogarsi, ma persone con le quali probabilmente abbiamo a che fare tutti i giorni, sul lavoro o nelle normali attività. Insomma, degli insospettabili. Lettera firmata. Vorrei intervenire sul caso Balotelli. Se di fronte ad una manifestazione razzista non scindiamo la causa dall'effetto, apriamo la strada alla possibilità che le uova del serpente siano fecondate. Quale sia stata la causa, l'effetto non può essere una manifestazione razzista. Punto e basta. Perché se iniziamo a dire che i tifosi non insultano Tizio con cori razzisti, ma li usano con Caio perché è villano e indisponente, o perché vogliono provocarlo, o quel che si voglia, apriamo la strada all'utilizzo inconsapevole del razzismo. E dall'utilizzo inconsapevole si passa senza difficoltà alla strumentalizzazione. E dalla strumentalizzazione alla pratica vera e propria, la strada è poi breve, molto breve. Le uova del serpente vanno schiacciate appena e ovunque si trovino. Federico. Scusate se tento una difficile mediazione tra chi condanna gli episodi di razzismo e chi dice «non sono razzista», ma credo che lo stadio, per la sua funzione catartica, sia un luogo dove l'avvocato e l'impiegato, per un'ora e mezza, si travestono da guerrieri, pronti a difendere la loro bandiera. In questo contesto si urla di tutto. Si dice «devi morire», anche se non si è di certo assassini. «Figlio di...», anche se non si hanno informazioni sulla madre del calciatore avversario, eccetera. In questo contesto... non è detto che necessariamente dire negro di... voglia dire essere razzisti. Anche a me aveva fatto impressione vedere amici con i quali andavo allo stadio dire «Buh!» a un giocatore nero della squadra avversaria. Ma io li conosco e so che sono persone che, fuori da quel contesto, non sono per nulla razziste. Anzi, penso invece che il razzismo si misuri soprattutto fuori dagli stadi e che sia magari più preoccupante anche solo l'idea di voler prendere le impronte digitali ai Rom. Con tutto il rispetto, penso che Balotelli si riprenderà comunque bene dopo la batosta razzista subita a Torino. Ad ogni modo, penso che il razzismo sia un brutto animale che un po' tutti ci portiamo dentro e che ha a che fare con le nostre paure. Ben venga se anche dal calcio arrivano segnali chiari contro il razzismo. Andrea da Brescia. Sono un 45enne e giovedì sera volevo recarmi allo stadio con i miei figli di 9 e 13 anni e con un amico, anche lui quarantenne con un figlio di 8. Mi reco alla Banca Popolare di Milano per acquistare i tagliandi e mi avvisano che posso comprare solo 4 biglietti e che devo presentare i documenti di tutti, bambini compresi. A questo punto penso ai 1000 bagarini fuori da San Siro che, puntualmente stracarichi di biglietti, a volte anche falsi, vengono sempre ignorati dalle varie forze dell'ordine. Ma la cosa che sinceramente non riesco proprio ad accettare è il fatto dei documenti. A parte che mi sembra assurdo dover presentare un documento di un minorenne per una partita di calcio, penso però che se per la sicurezza queste sono misure necessarie, forse è meglio soffrire un po' ma essere tranquilli. L'incredibile però è che quando qualche settimana fa, non riuscendo a trovare i biglietti per il derby Inter Milan, mi sono rivolto ad un amico, questo mi ha assicurato che avrei potuto entrare allo stadio con gli Ultras, pagando un pizzo al capo Ultras. Essendo malato di calcio, ho pagato 40 euro al capoccia di turno e sono entrato allo stadio senza che nessuno mi perquisisse o mi chiedesse il biglietto. D'altronde, è molto più pericoloso un padre con figli che un gruppo di teppisti come i boys dell'Inter, e posso confermarlo avendo visto direttamente in quell'unica e ultima occasione come si comportano in curva. Come sempre in questo paese vengono create leggi per dare fastidio alle persone normali, mentre chi sarebbe veramente da punire viene semplicemente ignorato. Claudio. Quella che stiamo vivendo è una crisi da domanda mondiale, determinata da un eccesso di debito. Infatti, nei paesi occidentali, negli ultimi 10 anni circa, la massa monetaria è cresciuta di almeno 20 volte in più del PIL e ha finanziato la crescita del debito del settore privato immesso tramite i circuiti bancari, determinando gli effetti inflattivi che abbiamo sperimentato fino a metà del 2008. Negli stessi anni il PIL è cresciuto a ritmi elevati solo in Cina, che ha così accumulato enormi riserve valutarie. Intanto, sempre nei paesi occidentali, il settore finanziario, che peraltro si presenta adesso eccezionalmente concentrato e di conseguenza più vulnerabile rispetto agli errori di politica aziendale, si è lanciato in una frenetica moltiplicazione tramite le cartolarizzazioni e altri strumenti della massa monetaria. In questi anni le economie dei paesi occidentali sono cresciute grazie alla crescita del debito, che peraltro ha fabbricato ricchezza espressa dagli utili delle banche, mentre la Cina è cresciuta con l'export. Con il risultato che adesso, semplicemente, nei paesi occidentali non gira più moneta, mentre quella accumulata dalla Cina viene gelosamente custodita in casa. Siamo passati nel giro di 6 mesi da uno scenario inflattivo ad uno scenario di deflazione. Come si esce da questa situazione? Si esce in tempi lunghi e soprattutto solo tramite una caduta generale del livello dei prezzi. Infatti, fin tanto che il rapporto tra domanda e offerta non avrà trovato un nuovo equilibrio, su prezzi nettamente più bassi rispetto a quelli attuali, non ci sarà ripresa. Ciò non significa che i paesi occidentali usciranno peggio dei paesi esportatori di beni e di materie prime e di petrolio. Anzi, molto probabilmente saranno questi ultimi a pagare il prezzo più alto della crisi. Infatti, a livello mondiale, semplificando per quanto attiene ai beni materiali, una parte del mondo produce ed esporta e l'altra consuma. La ricchezza, infatti, altro non è che una differenza tra costi e ricavi. Tale crollo dei prezzi, che paradossalmente è auspicabile anche nella CE, misura il grado di reattività di un sistema allo shock e sappiamo ormai bene che quello statunitense è molto più reattivo rispetto ai mutamenti di scenario improvviso rispetto agli altri sistemi occidentali. Quanto durerà questo processo? Dipenderà dai tempi di ripresa dell'attività interbancaria e dalla velocità del calo dei prezzi. La sopravvivenza delle nostre imprese dipende dalla velocità del calo dei prezzi sull'import, poiché se esso sarà lento, la crisi perdurerà per i prossimi anni, ma se esso sarà rapido, la ricchezza prodotta nei paesi occidentali sarà maggiormente indirizzata sui beni non import. Massimo. Caro Massimo, la sua analisi ha indubbiamente molti spunti di riflessione e una sua forte razionalità. E in effetti, se pensiamo al brusco calo dei prezzi delle materie prime in questi ultimi mesi, lei ha indubbiamente ragione nell'indicare potenzialmente nella deflazione uno dei rischi che il sistema economico dovrà superare per uscire da quella che ormai si può considerare la più grave crisi economica dopo quella del 29. La deflazione non è altro che il contrario dell'inflazione, una flessione dei prezzi che porta normalmente con sé anche una riduzione dell'attività e una frenata dei consumi, aggravando così la crisi già in atto. Ma la sua analisi, caro Massimo, dovrebbe anche tener conto che la risposta alla crisi attuale da parte delle autorità monetarie si è basata sull'immissione nel sistema economico di un'abbondante liquidità con una progressiva riduzione dei tassi di interesse. La teoria economica insegna che se si riduce la ricchezza prodotta e si aumenta la quantità di moneta in circolazione, il prezzo dei beni non può che nominalmente aumentare e quindi più inflazione, aumenti dei prezzi generalizzati. In modica quantità, l'inflazione non è un male, potrebbe essere anche un segno di ripresa economica e un fattore in grado di spingere ad anticipare acquisti e investimenti. Una fiammata inflazionistica sarebbe invece un fatto fortemente negativo, perché peserebbe in misura maggiore sulle classi più deboli, sui lavoratori, risparmiatori, pensionati. Il vero rischio dei prossimi mesi non sarà quindi in primo luogo quello della deflazione, ma quello della vecchia e ben conosciuta inflazione. Un rischio che tuttavia le autorità monetarie e politiche dovrebbero poter contrastare, o almeno noi speriamo che sia così. Egregio direttore, ho sentito la trasmissione sul Grande Fratello e gli altri reality e desidererei offrirle una lettura mimetica del fenomeno. Mimetica nel senso antropologico del termine. Parto dalla considerazione che uno dei fattori del successo dei reality è quello di farci fare i fatti degli altri e di riuscire a partecipare, in qualche modo, al successo di un vincitore. In altre parole, il reality è costruito sulla tendenza umana a imitare i desideri degli altri, che si trasformano così in modello, perché ci indicano ciò che è desiderabile, e allo stesso tempo in ostacolo, perché competono con noi per lo stesso oggetto. Lei capisce che tale teoria si adatta malissimo all'attuale clima culturale, per cui il desiderio è la cosa più spontanea e originale che noi possiamo avere e accettare, mentre il fatto che semplicemente ce li copiamo gli uni dagli altri lede uno degli assiomi fondativi dell'umanità moderna. Ora, i reality vivono su gruppi di persone assortiti per scatenare queste tempeste mimetiche. Si fa fatica a capire chi è l'allievo e l'insegnante. C'è quindi uno scambio dei ruoli e c'è un gioco di compenetrazione realtà-finzione. Infine, i reality si collocano anche su un crinale dove la distinzione tra vincitore idolo e perdente vittima espiatoria è molto sottile. Vale per Ferdinando, rom integrato, come per i partecipanti di X Factor, che possono diventare gli oggetti del pubblico ludibrio. Nei secoli scorsi la funzione di rappresentare i conflitti mimetici tra gli uomini era assolta dalla letteratura romanzesca, dal vaudeville fino a Stendhal. Oggi invece viene svolta dal reality, più o meno bersagliato dallo stesso tipo di accuse di voyeurismo e immoralità che i ben pensanti ottocenteschi rivolgevano a Flaubert. A ben vedere, potremmo dire che il Grande Fratello televisivo non è altro che l'ultimo stadio delle grandi macchine di rappresentazione dei conflitti mimetici inventate dall'Occidente, che partono dalla tragedia greca, passano per il poema cavalleresco e il romanzo moderno e approdano con buona pace di Concita De Gregorio a Maria De Filippi. Luca. Anche questa volta non voterò per il Parlamento europeo. Non tanto per i candidati proposti da una o dall'altra parte, anche se mi sembra di aver sentito parlare di ex partecipanti a programmi televisivi. Francamente non conosco la preparazione politica di questi personaggi, ma so quanto ci verranno a costare. Ritengo comunque il Parlamento europeo un ectoplasma dove i parlamentari vanno a discutere del sesso degli angeli, con 10.000 interpreti e portaborse vari, una cosa costosissima e priva di vero potere politico. Ritornando ai candidati italiani, ex Grandi Fratelli, ex ballerine, ex non so cosa, qualcuno si chiede dove andremo a finire. Io dico che non è la prima volta che si vedono candidati, diciamo, ambigui. Se ben ricordiamo, al Parlamento italiano sono stati eletti personaggi del calibro di Luxuria e Ilona Staller. Gli elettori hanno i candidati che si meritano. Fabrizio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it.